Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi spiace che qualcuno a sinistra cerchi ancora in Italia e nel resto del mondo di eliminare per via giudiziaria gli avversari politici. Siamo antropologicamente e culturalmente diversi. Ho scelto io, contro il mio interesse, contro la mia convenienza, contro il mio quieto vivere, di andare in un tribunale, confidando nella terzietà della magistratura. Le parole, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Matteo Salvini, leader della Lega, ex ministro dell'Interno, poco prima di entrare nell'Aula del Senato, dove si è dibattuto per poi votare sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Gregoretti, che naturalmente approfondiremo con tutti i precedenti e tutto quello che è successo oggi, insomma, per ricostruire un po' la vicenda. Ha detto alla fine: io basta, mi voglio fare processare, sono stufo di andare avanti con questa storia, dimostrare che insomma ho bloccato quella nave militare con sopra i migranti nel luglio dell'anno scorso per il bene della mia patria, per il bene dell'Italia. Naturalmente la maggioranza opposta a Salvini la pensa e l'ha pensata in modo diverso, ha votato in modo diverso. Comunque di questo ci occuperemo in buona parte di questa puntata di Effetto Notte, così come sto facendo da settimane. Tornerò con gli ospiti sugli sviluppi che riguardano l'epidemia di coronavirus, che adesso sapete un nome, anzi due, poi ve lo dirò. E poi c'è il calcio, ma c'è anche la vicenda di un ragazzo egiziano che studia per un master all'Università di Bologna, che come sapete è stato arrestato in Egitto, era lì per pochi giorni per trovare la famiglia e rischia di essere un nuovo caso Regeni, ma su questa volta insomma, bisogna tenere i riflettori puntati e per questo lo faremo anche in questa puntata. Per i vostri commenti, le vostre riflessioni, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, li potete scrivere lì comodamente oppure inviarli via SMS o WhatsApp al 349-238-6666, ma prima di tutto sintesi della giornata. Caso Gregoretti, il Senato dà il via libera per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, l'ex ministro dell'Interno sottolinea: rifarei tutto. Coronavirus, il virus frena il PIL mondiale ma l'epidemia sembra rallentare. L'OMS però avverte: troppo presto per capire se sta finendo. Cancellato intanto il Mobile World Congress a Barcellona. Chiusa l'inchiesta all'Italia per bancarotta, i 21 top manager rischiano il giudizio. Il caso dello studente arrestato in Egitto, Zaki sequestrato e picchiato per farlo parlare di Giulio Regeni, denunciano i suoi genitori. Svolta nel Pacifico, le Filippine annunciano la fine del patto militare con gli Stati Uniti. Calcio a San Siro, semifinale di Coppa Italia maschile tra Inter e Napoli. Partiamo quindi dal voto del Senato sul caso Gregoretti, Senato che ha dato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sapevo, ha detto l'ex ministro dell'Interno, sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto e lo rifarò appena tornato al governo. Sì, dunque al processo a Matteo Salvini, come richiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania, che contesta al leader della Lega l'ipotesi di sequestro di persona quando era responsabile degli interni per i 131 migranti rimasti per 4 giorni sulla nave militare Gregoretti prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019. Per il processo si è espressa la maggioranza e no da Forza Italia e Fratelli d'Italia. La Lega ha lasciato l'aula prima del voto. Salvini nel suo intervento ha difeso il suo operato parlando di aggressione politica. Io una parola, una faccia, facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio paese o se sono un criminale. Da Salvini solo fughe e menzogne, ha commentato Crimi 5 Stelle. Salvini chiedeva il processo e lo abbiamo accontentato, le parole di Renzi. Altro capitolo, quello della prescrizione, bocciato il lodo Annibali, l'emendamento di Italia Viva al mille proroghe per rinviare di un anno la riforma Bonafede. Le modifiche a questa, concordate nella maggioranza, arriveranno domani in Consiglio dei Ministri in un disegno di legge. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo agli sviluppi dell'epidemia del coronavirus. Aumentano le guarigioni, salite al 10,6% ieri rispetto al tasso più basso dell'1,3% del 27 gennaio scorso, ma finora le vittime del coronavirus sono almeno 1.115 e circa 45.000 i contagiati, e in Cina si moltiplicano gli sforzi per frenare l'epidemia. È in buone condizioni generali e senza febbre il cittadino italiano rientrato da Wuhan e ricoverato allo Spallanzani di Roma per coronavirus. Stabili, ancora in prognosi riservata, invece i 2 cittadini cinesi contagiati e provenienti sempre da Wuhan. Peggiorano e aumentano di un'altra quarantina i contagiati le condizioni a bordo della nave da crociera Diamond Princess in quarantena nel porto giapponese di Yokohama. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato dello 0,3% il prodotto interno lordo globale nel 2020, ritenendo il virus un rischio per l'economia mondiale. L'OPEC ha invece ridotto di circa un terzo le proprie previsioni di crescita della domanda globale di petrolio a causa dell'emergenza coronavirus che abbatte i consumi di carburanti in Cina. Al vertice sul controllo dell'epidemia, il presidente Xi Jinping si è felicitato per l'evoluzione positiva nella lotta al virus con il duro lavoro messo in campo e con le iniziative di prevenzione. E intanto le autorità della provincia cinese dell'Hubei, focolaio del contagio, hanno licenziato o sottoposto a misure disciplinari un gruppo di funzionari per aver violato le norme sul lavoro ed essersi sottratti alle proprie responsabilità nella lotta per contenere il virus. Per gli scienziati di Pechino il picco dell'infezione sarà a fine febbraio e dall'OMS, che ha denunciato anche una cybertruffa per soldi e dati attraverso email di persone che si spacciano per membri dell'organizzazione, arriva l'allarme. Questa epidemia è una minaccia peggiore del terrorismo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre Pechino sospende l'appuntamento con la Formula 1 di metà aprile, il Mobile World Congress, la più importante fiera della telefonia mobile in programma a fine febbraio a Barcellona, non si farà appunto a causa del coronavirus. Lo ha deciso la GSMA, l'Associazione Mondiale degli Operatori delle Telecomunicazioni, che organizza l'evento al termine di una lunga riunione. Tutto il sistema fieristico internazionale si interroga sui prossimi passi. A Milano questa mattina c'era attesa per la presentazione della 59esima edizione del Salone del Mobile. Il salone riparte, sappiamo qual è la situazione in Cina e sapremo gestirla. Così il presidente Claudio Luti presenta la 59esima edizione del Salone del Mobile dal 21 al 26 aprile a Milano. Dopo il record lo scorso anno di quasi 400.000 visitatori, sono stimati i numeri più bassi anche a causa dell'epidemia di coronavirus. Nel 2019 i cinesi sono stati 30.000, sottolinea Luti. Quest'anno ce ne saranno meno, vedremo come saranno le situazioni, come andrà. Credo che sia una cosa da monitorare e seguire le decisioni del governo europeo e del governo nostro. Se non potranno partecipare, rafforzeremo il digitale. L'organizzazione deve andare avanti, aggiunge il numero uno del salone, dove sono attesi oltre 2.000 espositori, il 35% dall'estero. In merito agli aiuti alle imprese in difficoltà per il virus cinese, serve una spinta al sistema paese, dice Emanuele Orsini di Federlegno. Noi dal governo avevamo bisogno di essere aiutati, incentivati a portare nuovi paesi per far sì che comunque i nostri associati possano vendere al meglio i loro prodotti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Alitalia. Rischiano il giudizio in 21 tra vertici e ex componenti del consiglio di amministrazione, commissari e consulenti che si sono susseguiti negli anni nell'amministrazione della compagnia. Sono 21 gli indagati nell'inchiesta sulla gestione di Alitalia, ex vertici, ex consiglieri di amministrazione, consulenti e commissari ai quali la Procura di Civitavecchia ha notificato la conclusione delle indagini preliminari. Le ipotesi di reato prese in esame a vario titolo sono bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alla funzione di vigilanza. Fra gli indagati, oltre agli ex vertici Luca Cordero di Montezemolo, James Hogan e Bal Kramer, ci sono anche l'attuale amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Mustier, e la vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi. Mustier e Mansi all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di consiglieri non esecutivi nel CDA della compagnia aerea. Indagato anche l'ex commissario all'Italia Enrico Laghi, ora neocommissario liquidatore di Air Italy. L'inchiesta copre quasi 3 anni di gestione all'Italia dal 2014 al febbraio 2017. Secondo i magistrati, gli indagati a vario titolo sono responsabili della bancarotta di Alitalia perché avrebbero commesso tutta una serie di falsi per l'approvazione del bilancio del 2015. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il caso dello studente arrestato in Egitto. L'Europa si muove per Patrick George Zaki, arrestato venerdì al Cairo, tuttora detenuto. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, chiede che sia rilasciato subito. Intanto spunta la testimonianza resa all'ANSA di un amico di Zaki, a cui Zaki avrebbe detto: sono stato rapito dalle forze di sicurezza statali in Egitto, interrogato per 35 ore, non ho subito elettroshock, ma sono stato picchiato, bendato e legato. I genitori del giovane denunciano che a lui è stato chiesto anche dei suoi legami con la famiglia di Giulio Regeni. Anche l'Università di Bologna lancia un appello a tenere alta l'attenzione su questa vicenda e per questo sarà ospite qui a Effetto Notte il prorettore dell'Università di Bologna. Siamo all'estero con le Filippine che hanno informato ufficialmente gli Stati Uniti di voler porre fine a al patto di cooperazione militare tra i due paesi, lo riporta il New York Times. La decisione del presidente filippino Duterte coincide col suo recente avvicinamento nei confronti della Cina. L'accordo messo in discussione da Manila è quello che regola anche la presenza delle forze americane nelle basi delle Filippine, nonché lo svolgimento delle esercitazioni militari congiunte ora a rischio, anche se il patto resterà in vigore comunque per 180 giorni ancora. Nuovo scontro frontale tra l'ONU e Israele. Michelle Bachelet, alta commissaria per i diritti umani, ha diffuso una blacklist di 112 aziende che hanno rapporti con gli insediamenti ebraici in Cisgiordania considerati illegali. Una mossa censurata immediatamente da Israele. Chi ci boicotta sarà boicottato, ha denunciato il primo ministro Netanyahu, mentre il ministro degli esteri Israel Katz ha parlato di vergognosa resa alle pressioni di paesi e organizzazioni intenzionate a colpirci. La diffusione del rapporto è stata invece salutata con gioia dai palestinesi che l'hanno definita per bocca del ministro degli esteri una vittoria del diritto internazionale e degli sforzi diplomatici volti a prosciugare le risorse del sistema coloniale rappresentato dagli insediamenti illegali nei territori palestinesi. Era atteso da tempo questo rapporto innescato dalla risoluzione 3136 del Consiglio dei diritti umani di base a Ginevra e composto da 47 paesi a maggioranza non occidentale e fa questa lista i nomi di quelle aziende che hanno rapporti economici appunto con gli insediamenti ebraici. Di nuovo in Italia con Taranto che segue con apprensione la trattativa per l'ex Silva, oggi audizione alla Camera. Con ArcelorMittal definita la base della trattativa, ma l'esito è ancora incerto. Se si arriverà all'intesa piena con l'investitore privato è cosa che potrà essere scoperta solo a fine febbraio. In un'audizione alla Camera i commissari di Irvine Amministrazione Straordinaria fanno il punto della situazione. È certo, affermano i commissari di Ilva, che non ci sarà un altro rinvio al Tribunale di Milano. O si raggiunge un'intesa entro fine mese oppure dal 6 marzo, data della nuova udienza, si andrà ad una decisione del Tribunale ed ognuno dovrà assumerne le conseguenze. La base su cui il negoziato dovrà procedere nelle prossime settimane è data da una serie di elementi: anticipazione dell'acquisto di Ilva da parte di ArcelorMittal, che non avverrà nel 2023 ma prima, mantenimento del prezzo finale del canone di fitto, infine disponibilità dello Stato ad entrare nella compagine a fronte della disponibilità del privato ad accettare nuove tecnologie green nel sito di Taranto insieme al mantenimento dell'occupazione. Il nuovo siderurgico di Taranto viaggerà a regime ad una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma solo dopo la costruzione dei forni elettrici. Il nuovo piano, spiegano i commissari, è condiviso con ArcelorMittal. Ma se ArcelorMittal non ci sarà, si cercherà di fare in altro modo. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. I costi dello smog per il mondo, una stima di 4 milioni e mezzo di morti premature ogni anno e 2.900 miliardi di dollari equivalenti a 3,3% del prodotto interno lordo mondiale, ovvero 8 miliardi di dollari al giorno. Questo è il costo che, come emerge da un rapporto di Greenpeace, si stima il pianeta sostenga annualmente per l'inquinamento atmosferico. Quanto all'Italia, il prezzo che paga ogni anno è stimato in circa 56.000 morti premature e 61 miliardi di dollari. Ma passiamo al calcio con il nostro Dario Ricci, che è in diretta dal Stadio San Siro, semifinale di Coppa Italia maschile tra Inter e Napoli. Caro Dario! Buonasera, trentesimo di gioco a San Siro, partita dai ritmi bassi che non si schioda dallo 0-0 iniziale, qualche conclusione dal limite da ambo le parti, la più significativa all'undicesimo per il Napoli, Caleon serve Mertens che di destro calcia di poco alto sulla traversa della porta, difesa anche in questa occasione da Badelli, visto il perdurare dell'infortunio del capitano dell'Inter Andanovic. Per quanto riguarda i nerazzurri, un paio di conclusioni deboli di Lautaro Martinez, e pochi istanti fa al 28esimo la punizione dai 20 metri di sinistro di Biraghi fuori di un soffio. 31esimo di gioco in questa semifinale d'andata tra Inter e Napoli, che vivrà poi il suo ritorno il 5 marzo a San Paolo. Risultato ancora fermo di 0-0, ma seguiamo questo attacco del Napoli, Roberta con Elmas che entra in area di rigore, la conclusione, il cross a centro area, arriva Biraghi e libera in calcio d'angolo, 0-0 al 31esimo a San Siro. Grazie Dario Ricci, in diretta appunto dallo stadio milanese di San Siro, poi ci dirà come prosegue la partita più tardi. Adesso invece dobbiamo spostarci tra pochissimo sulla partita politica e su tutti gli altri approfondimenti con gli ospiti. Per i vostri messaggi sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Scrive questo ascoltatore: no, guardi, Salvini non ha deciso di andare a giudizio, ma va a giudizio perché ha violato le leggi. No, io non ho detto che lui ha deciso, nel senso mentre fino a qualche tempo fa diceva non è giusto, non devo andare a processo eccetera eccetera, adesso ha chiesto addirittura ai suoi della Lega di votare per l'autorizzazione. Poi oggi è successa un'altra cosa, nel senso che hanno lasciato il Senato eccetera eccetera, ma tra poco, senza fretta, ne parleremo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, naturalmente, dopo la sintesi della giornata, per cominciare con gli ospiti ad approfondire alcuni dei temi in primissimo piano. Naturalmente inizieremo dalla politica, poi, come vi dicevo, parleremo anche degli sviluppi, come tutti i giorni vi racconto, del coronavirus con un ospite, in particolare sui modelli di previsione dell'epidemia. E poi parleremo, ci aggiorneremo con il calcio, parleremo anche del caso Zaki, e voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Prima ho chiarito con un ascoltatore su una cosa che ho detto a proposito di diverse opinioni e posizioni che ha avuto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso del tempo su questo caso Gregoretti. Adesso cercheremo di chiarirlo con la nostra ospite. E poi invece dice un altro ascoltatore: adesso con questa autorizzazione a procedere per Salvini gli fanno solo guadagnare punti perché lo fanno passare per martire e lui lo sa. Però adesso cominciamo allora ad andare sui fatti e partiamo proprio con un primo audio. Mi spiace che qualcuno a sinistra cerchi ancora in Italia e nel resto del mondo di eliminare per via giudiziaria gli avversari politici. Siamo antropologicamente e culturalmente diversi. Ho scelto io, contro il mio interesse, contro la mia convenienza, contro il mio quieto vivere, di andare in un tribunale, confidando nella terzietà della magistratura. Ecco, questo intendevo dire quando l'ascoltatore ha detto non è che lui che ha deciso ha violato le leggi eccetera eccetera, ma nel senso che all'inizio diceva assolutamente no, non è neanche concepibile che io debba essere processato eccetera, e poi ha detto in questo senso che si sottopone volontariamente, non viene costretto in qualche modo, è lui stesso che vuole andare a processo. Ecco, chiariamola così. Insomma, comunque è arrivato il giorno, è arrivata la data fatidica in cui il Senato si è trovato appunto a dover esprimere il voto sull'autorizzazione o meno a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, accusato, come sapete, di sequestro di persona aggravato per il caso Gregoretti. Ricordate la nave militare, della nave marina, della Marina Militare Italiana, che nel luglio del 2019, quindi dell'anno scorso, è rimasta bloccata per alcuni giorni al largo del porto di Augusta con 131 persone a bordo, perché appunto l'ex ministro dell'interno aveva vietato lo sbarco, ricordate, in quel braccio di ferro con le navi dell'ONG, ma anche in questo caso della Marina Militare e nello stesso tempo con l'Unione Europea. Il Senato, quindi, questa è la conclusione, oggi diciamo, la notizia, ha dato il via libera per il processo a Salvini, il quale, per farsi processare o meno, appunto come vi dicevo prima, ha cambiato più volte idea. Intanto saluto la firma scintillante politica del Sole 24 Ore, Lina Palmerini. Carolina? Grazie, ciao Roberta, buonasera. Ciao Carolina. Allora, sentiamo intanto anche un altro passaggio di Salvini nel suo intervento, perché prima aveva parlato prima di entrare al Senato, adesso alcuni passaggi invece, diciamo, durante la sua arringa al Senato. Il giuramento che fanno i ministri recita: giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E l'articolo 52 della Costituzione ricorda che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Io ritengo di aver difeso la mia patria. Non chiedo un premio, perché avevo lo stipendio pagato per quello, però se ci deve essere un processo, che ci sia. Così ha detto Salvini. Sentiamo anche quest'altro audio, sempre relativo a cosa ha detto Salvini in aula al Senato. Si parla di un processo, non si parla di una passeggiata. E io lo faccio e dico quello che dico, e interverrò sul piano giuridico e poi sul piano politico e umano, per rispetto nei confronti della carica che ho avuto l'onore di ricoprire, degli italiani e dei miei due figli che vanno a scuola, che hanno il diritto di ritenere che il loro papà sia spesso lontano da casa, non perché passa il tempo a sequestrare esseri umani, ma perché difendere i confini e la sicurezza del suo paese era un suo preciso dovere. A qualcuno non è andato giù il riferimento in aula al Senato su una cosa come questa, ai figli, come ha fatto Salvini. Sentiamo quindi a questo proposito Perilli del Movimento 5 Stelle. Questa è una mia cosa personale, non intendo accendere delle polemiche. Io i miei figli non li tiro in ballo rispetto a questioni politiche, strumentalizzazioni, perché devono rimanere fuori da qualsiasi contesto rispetto al quale poi ci deve essere un'azione politica. Mia figlia è a casa, sta giocando, sta andando a scuola e non sa e non può sapere quello che stiamo facendo qua. Non so, Lina Palmerini, cosa ne pensi? Forse effettivamente, in genere, diciamo che per quanto riguarda i figli si possono lasciare da parte nella loro privacy, però Salvini si è molto irritato di questo intervento. Insomma, è stata comunque una giornata molto tesa in Senato, no Lina? Sì, guarda, per quanto riguarda i figli, insomma, ciascun politico può diciamo organizzare la sua propaganda, il suo discorso pubblico come crede. Salvini ha pensato di utilizzare i suoi figli, va benissimo, è legittimo, ciascun politico può dire, provare a difendersi, a dire le sue ragioni come crede. Il punto qual è? Il punto è che se lui ha esercitato correttamente i suoi compiti, a questo punto lo deciderà la magistratura, se Salvini veramente ha come dire, tutelato un interesse costituzionalmente prevalente, così come dice la legge. Io ritengo giusto che comunque come ex ministro dell'interno, tra l'altro, lui insomma si faccia giudicare dalla magistratura. Dal punto di vista politico penso che questa cosa gli ridarà smalto, cioè aveva ragione l'ascoltatore, quello che hai citato all'inizio. E molti lo stanno scrivendo questo, che diventa un martire, un eroe, no? Tra l'altro in un momento in cui lui era abbastanza più, aveva perso un po' di smalto, perché comunque il colpo della conquista dell'Emilia Romagna non gli è andato bene, non gli è andata bene neanche la spallata al governo. Apete famoso. E quindi diciamo aveva perso un po' di smalto. Indubbiamente questo sì al processo gli restituisce smalto, ma soprattutto gli restituisce un argomento con il quale parlare agli italiani e quindi tornare sulla questione della difesa dei confini nazionali. Per cui la questione dei migranti, quindi, che insomma gli è cara e che probabilmente è quella che più gli ha dato consenso, no? Anche durante il suo governo. Che gli ha dato consenso e che adesso comunque il processo, il suo l'iter processuale, poi vediamo come andrà a finire, sicuramente lo rafforzano, diciamo, in questo suo argomento politico. Dopodiché, come ha anche detto lui, è consapevole anche dei problemi che questo processo comporta, perché se mai ci dovesse essere una condanna finirebbe, diciamo, nella rete della legge Severino, quindi sarebbe incandidabile, come prevede la legge Severino. Sì, decadrebbe anche da senatore, è incandidabile, quindi questo oggettivamente è un problema per lui, ma è un problema anche per la Lega. Lui potrebbe continuare a fare il segretario politico e quindi probabilmente a macinare consensi, però insomma diventa un handicap molto, non molto da poco. Forte per sentiamo lui. Lina, anche Renzi di Italia Viva che cosa ha detto? È in qualche modo riuscito con la sua a volte finezza, no, mentale, a essere, diciamo, a votare sì per l'autorizzazione, nello stesso tempo però un po' tirarsi indietro dicendo ma poi saranno i magistrati, io non ritengo che abbia compiuto un reato, quindi dal punto di vista giudiziario in qualche modo tra virgolette lo assolve, mentre dice più una questione politica. Sentiamo Renzi. Salvini è colpevole dei reati di cui viene accusato? Io, che non sono un giudice, non sono un magistrato, dico ma mi sembra complicato, mi sembra difficile, mi sembra un po' tirata per i capelli. Cioè, sono molto critico dal punto di vista politico su ciò che ha fatto Salvini. Non lo avrei mai fatto e l'ho criticato. Non credo personalmente che questo sia un reato, ma se è reato o no, lo decidono dei magistrati. E perché lo possano decidere c'è un processo che lo stesso Salvini ha chiesto di fare. no? Lina, quindi dice l'ha chiesto lui, sì. Perché alla fine tra tutti poi i cambiamenti che ha avuto, atteggiamenti nei confronti di questa vicenda, all'inizio appunto come spiegavo diceva che era una cosa vergognosa, inconcepibile, aveva attaccato la magistratura, poi invece a un certo punto si è convinto dicendo va bene, se mi vogliono processare, sì. E addirittura ha chiesto ai suoi, ai senatori della Lega di votare a favore di questa autorizzazione. Oggi poi un'altra scelta ancora, ha chiesto di uscire a tutti, no? Che comunque al Senato ha un significato quando non si vota, Lina. Sì, no, ma sappiamo bene che poi la scelta di dire sì al processo, quella diciamo della Giunta, era a ridosso delle elezioni emiliane, quindi anche lì torniamo nella propaganda, quindi a lui serviva anche per dare una spinta a quel voto in Emilia Romagna che poi non è andato bene. Dopodiché Renzi lo assolve politicamente, mi pare di capire, no? Lui dice dal mio punto di vista insomma non c'è un reato, anche se poi lo decideranno i magistrati. È interessante questa posizione di Renzi, anche perché credo che adesso la Lega guardi con molto interesse a Renzi. Per quale motivo? Perché non essendo riuscita la spallata al Conte 2 attraverso le urne dell'Emilia Romagna, adesso sperano molto che lo faccia Renzi, perché altrimenti insomma la Lega si ritroverebbe chiusa nel recinto dell'opposizione senza la possibilità di rovesciare questo governo. Invece pare che Renzi sia piuttosto attivo su questo fronte, no? A partire dal tema della prescrizione, anche su altri temi, ma questo in particolare, no? Sì, a partire dal tema della prescrizione, che non a caso ha usato e ha alzato il tiro fino al punto di minacciare una mozione di sfiducia personale contro il ministro Bonafede. È logico che quella mossa lì significa crisi di governo. Giù il governo, perché però, comunque Bonafede è il capo delegazione del Movimento, chiaro, 5 Stelle. Lina, però vogliamo anche dirci che forse per questo momento probabilmente non conviene a nessuno andare elezioni anticipate, a Renzi stesso, anche perché non credo che sia, adesso c'erano gli ultimi sondaggi che non ho guardato poi nel dettaglio, che sia al 4% ancora più o meno. Ma sì, ma infatti bisogna capire bene qual è l'obiettivo di Renzi, perché probabilmente a lui, lo scrivevo anche oggi, la soluzione ideale potrebbe anche riuscire nel capolavoro di buttare giù il governo senza andare alle urne, quindi sperare magari in una pattuglia di responsabili oppure finire nel calendario del dopo taglio dei parlamentari, e quindi dopo si dovrà decidere come ridisegnare il collegio, eccetera. Quindi il lavoro che sta facendo Renzi è di congegnare questa uscita dal governo, ma senza andare a elezioni anticipate. È possibile? Non lo so, lo vedremo. Però sicuramente questo è il suo piano ideale, perché riconquisterebbe uno spazio fuori dal governo che adesso non ha e che non gli ha portato bene in termini di consensi per Italia Viva, e nello stesso tempo non andrebbe subito alle urne, quindi subito a incassare un risultato che al momento è proprio molto modesto. Povero. Quindi sempre resta un giocatore di scacchi, no? Abbastanza. Sì. Abbastanza è la sua caratteristica. Senti, una cosa interessante anche Lina è che nel primo audio che ho fatto sentire di Salvini, lo vogliamo fare sentire questo pezzetto, tanto è breve. Mi spiace che qualcuno a sinistra cerchi ancora in Italia e nel resto del mondo di eliminare per via giudiziaria gli avversari politici. Siamo antropologicamente e culturalmente diversi. Ho scelto io, contro il mio interesse, contro la mia convenienza, contro il mio quieto vivere, di andare in un tribunale, confidando nella terzietà della magistratura. A parte la fiducia della magistratura, eccetera, eccetera, però dice all'inizio la sinistra che, come altrove, cerca di buttar giù l'avversario con la magistratura. Un po' fa riferimento evidentemente a Trump, con i democratici, il tentativo di impeachment, no? Immagino. Però non cita Berlusconi, perché negli anni insomma è stato un argomento berlusconiano. Sì, però lui non cita il Movimento 5 Stelle, che secondo molti, anche della Lega, oggi vedevo anche una dichiarazione di Federica della Lega, governatore del Friuli Venezia Giulia, che dice il Movimento 5 Stelle più che tradire Salvini ha tradito l'Italia, mentre Salvini il Movimento 5 Stelle almeno in questi passaggi non l'ha citato, che era il governo con lui in quel momento, no, sul caso Grigoretti. Ma no, io direi due cose. Dunque, quello sulla sinistra, vabbè, è un argomento tipico d'opposizione di centrodestra, come poteva fare altrimenti il partito di Zingaretti, che tra l'altro politicamente è contrario alla linea sull'immigrazione, sullo stop agli sbarchi, eccetera. Quindi non potevano far altro che dire sì. Per quanto riguarda i 5 Stelle, l'accortezza di Salvini e della Lega sta sempre in un fatto, cioè nell'attesa che il Movimento 5 Stelle si spacchi e quindi che una parte dei grillini poi possano confluire, diciamo, nel centrodestra, verso la Lega. Quindi parla a quella parte di elettorato e a quella parte di movimento che anche da lì potrebbe arrivare magari uno scossone al governo. Quindi coccolano, diciamo, ognuno quello che potrebbe, cioè, l'acqua al proprio mulino. Bisogna dire, Lina, in ogni caso, che cosa succede adesso per Matteo Salvini dopo questo via libera? In realtà sarà giudicato da una sezione ordinaria del Tribunale di Catania, però non è detto che vada necessariamente a processo, da quello che ho potuto vedere o capire. Ma io, certo. Lina, no? Adesso la decisione è del giudice per le indagini preliminari che deciderà se andare avanti. Anzi, sì. Oppure no. Tra l'altro, tra un po' arriverà anche l'altra vicenda della nave Open Arms, quindi e lì è ancora più complicato per lui, perché ci sono delle mail di Conte che dimostrano come la decisione di Salvini sia stata una decisione presa personalmente, quindi non collegiale del governo. Quindi arriva altro materiale. Vedremo. Da una vicenda all'altra. Fino alle regionali di maggio. Maggio-giugno ancora, una disperata campagna elettorale per noi, dico disperata. Lina, per chiudere, allora, una notizia. Cicciolina, alias Ilona Staller, ha detto: mi candido con il mio partito visto l'andazzo di questo governo. Potrebbe essere la soluzione, la vera spallata potrebbe darla lei? Vabbè, un grande ritorno, no? A volte ritorno, un grande revival, insomma, è tipico del nostro paese, no? Nostalgia canaglia, l'abbiamo visto anche con Sanremo, eccetera, eccetera. Va bene, grazie Lida Palmerini, Il Sole 24 grazie Ore. Grazie a te, buonasera. Buona serata, ciao. E ci fermiamo qua per la solita pausa breve di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata da Roberto Giordano, come sempre, tutte le sere nell'accompagnarvi a fine giornata su, tra le notizie più importanti che si sono susseguite durante il giorno dall'Italia e dall'estero, da approfondire poi quelle in primissimo piano con gli ospiti. Abbiamo parlato del caso Gregoretti, della via libera del Senato, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, anche se adesso c'è tutto un iter per cui non è scontato che vada a processo. Moltissimi vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, chi è a favore, chi è contrario. Chi magari dice Renzi e Roberta non gioca a scacchi ma gioca a poker, lui è un baro, e chi attacca uno, chi attacca l'altro, mentre Paolo dice: sbatti il mostro in prima pagina, passano gli anni ma i giornalisti italiani non cambieranno mai, semplicemente perché abbiamo raccontato la cronaca di oggi politica di quello che è successo in Senato, le varie affermazioni di Salvini, del Movimento 5 Stelle, del PD, di Renzi, eccetera eccetera. Non so che concezione abbia dei mostri da sbattere in prima pagina, e anche dei giornalisti, e forse anche di se stesso. Ma comunque passiamo ad altro molto importante. Anche ieri, come tutti i giorni, vi ho riassunto in modo molto dettagliato le tante notizie relative agli sviluppi dell'epidemia di coronavirus nel mondo, in Cina in particolare e anche in Italia. Sapete che da ieri è stato ribattezzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Covid-19 e anche vi ho ricordato le importanti dichiarazioni di ieri dell'OMS, che è la minaccia maggiore del terrorismo di questa epidemia. Ieri c'erano due ospiti, oggi non ci sono delle grandi novità, che per certi versi forse anche meglio. In realtà arriva anche un altro nome dal comitato internazionale che dà il nome ai virus, c'è anche un comitato internazionale che dà il nome ai virus, SARS-CoV-2, cioè Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, adesso bisognerà decidere poi qual è il nome ufficiale effettivamente. Il bilancio è relativo per il momento a 1115 decessi, per lo più in Cina, 45.183 i casi accertati di contagio. con la nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama in Giappone dallo scorso 5 febbraio, che è diventato il più grande bacino di contagi fuori dalla Cina, perché sono aumentati ancora i contagi. In Cina, tuttavia, sembra che il numero di nuovi casi sia in costante rallentamento, anche se oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito è troppo presto per prevedere la fine dell'epidemia del coronavirus. Ma il picco dell'epidemia di Covid-19, per il momento chiamiamolo così, potrebbe arrivare a Wuhan a fine febbraio o al più tardi ai primi di marzo. Così prevede un grande esperto come Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston, un fisico, un esperto di sistemi complessi, che saluto. Buonasera Vespignani. Buonasera a tutti. Professor Vespignani, allora, lei ha fatto la previsione di questo picco che ci dovrebbe essere per quanto riguarda Wuhan, proprio la città che è il focolaio di questa epidemia, nei prossimi tempi, soprattutto verso marzo, i primi di marzo, dice? I modelli non sono solo, non solo un modello, non il mio modello, ma molti modelli convergono verso un picco che è alla fine di febbraio, primi di marzo. Questo per l'area di Wuhan, che è l'epicentro dell'epidemia. Nelle altre province in Cina il picco probabilmente sarà più tardi e dipenderà anche molto dal tipo di misure che sono messe in campo in questo momento per contenere l'epidemia nei vari posti, e quindi parliamo poi invece di aprile o anche più tardi. Quindi questo bisognerà aspettare un pochino per avere delle indicazioni più precise. Lei comunque ha detto che nel resto della Cina, leggevo appunto una sua dichiarazione, si presentano almeno due scenari, uno naturalmente più ottimistico, l'altro peggiore, professor Vespignani. Sì, noi abbiamo, a questo punto siamo a un crocevia: o l'epidemia viene controllata nelle varie province cinesi, che in questo momento hanno visto casi, hanno visto quindi in qualche modo una crescita dei focolai epidemici. In quel caso, allora, se c'è un controllo, una riduzione della trasmissione della malattia all'interno della popolazione, è possibile immaginare degli scenari in cui il numero di casi diminuisca, e siccome il rischio internazionale è molto limitato in questo momento per via dei restringimenti di viaggio, delle varie misure prese dai governi, è possibile pensare che questa cosa rimanga contenuta. Se invece in Cina, nelle altre province cinesi, l'epidemia dovesse continuare a crescere, allora appunto un picco per tutta la Cina verso fine aprile, maggio, corrisponderebbe a un grande numero di casi e probabilmente anche ad altre importazioni in paesi limitrofi, e quindi la situazione potrebbe diventare una situazione di, come si dice, diffusione globale della malattia. Quindi questi due scenari, lei naturalmente non si sente di sbilanciarsi, ha detto che potrebbero essere queste le prospettive, insomma, professor Vespignani. Questo sbilanciarsi, perché dipende molto dalla battaglia che si sta combattendo sul terreno, nel senso, i modelli fanno vedere queste due strade, che però dipendono da quello che si riesce a fare sul terreno dal punto di vista di isolamento dei casi, di quarantene che vengono effettuate nelle varie province e così via. In Cina stanno combattendo una battaglia che è per loro stessi, ma è anche per tutti noi in questo momento, e l'esito però lo sapremo nelle prossime due settimane. Come diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi vediamo dei piccoli miglioramenti, cioè questo numero di casi che diminuisce un pochino giorno per giorno, però è anche vero che questo potrebbe anche essere in alcuni posti invece dovuto al fatto che il sistema in qualche modo è in sofferenza e quindi non riesce a fare la notifica dei casi perché c'è un ingorgo degli ospedali. Quindi adesso c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha un team di persone sul luogo, come si dice, con gli stivali sul terreno, e probabilmente ci saranno informazioni migliori per capire qual è la reale situazione. Professor Vespignani, tra questi due nomi, Covid-19 e SARS-CoV-2, perché addirittura c'è bisogno di questi due nomi? Lei ha una preferenza? Uno dato dall'OMS, l'altro sì, prego. No, preferenze non ne ho. In realtà il Covid-19 è dato dall'OMS, sì, e definisce la malattia. Mentre invece il SARS-CoV, eccetera, è il nome che verrà dato probabilmente al virus per specificare il tipo di famiglia della sequenza genetica. Queste sono cose tecniche, onestamente forse anche poco interessanti, se non altro però c'è un nome a questo punto che userei, è quello dell'Organizzazione Mondiale Covid-19, della Sanità, così anche per noi giornalisti, sì, ecco, più facile, se no diventa veramente complicato, no? Sì, sì. Anche... Io ho visto in questi giorni gli hashtag su Twitter cambiare completamente in 12 ore tre volte, quindi diventa impossibile seguire le cose. In effetti, la capisco benissimo. Lei è uno dei cervelli fuggiti all'estero, professor Vespignani, per caso? Tanto così era. Io sono all'estero da tanti anni oramai, da più di 20. Fuggire non si dice, ma io non mi piace dire un cervello in fuga, mi piace più dire forse un cervello in cerca di opportunità, che sono arrivato all'estero. Tornerà dalle nostre parti, professor Vespignani? Io torno spesso in Italia, collaboro moltissimo con l'Italia, dove ci sono degli ottimi team che fanno il lavoro che faccio io anche, cioè di modellizzazione delle epidemie. Sono a Torino, sono a Trento e collaboro molto con loro, e l'Italia è un paese molto forte in questo campo. Bene, questo ci conforta. Grazie comunque ovunque lei sia, professor Alessandro Vespignani, grazie da Boston. Grazie professore. A voi, buonasera. Grazie, buon lavoro. Via libera. Allora, non posso perdermi la prima serata. I miei follower aspettano i miei commenti. Grazie mille. Ora posso tornare sul divano? Sì, amore. Però mi fai grattini. Un vero professionista non smette mai di esserlo. Come Fiat Professional Talento, con volume di carico fino a 8,6 metri cubi. Oggi con canone da 138 euro al mese, TAN 380, tasso leasing 3,92. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiatprofessional.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Chiuso per il momento il capitolo coronavirus, invece ci concentriamo sul caso di Patrick Jokzaki, giovane egiziano che studia all'Università di Bologna, dove frequenta il Master Erasmus Mundi Gemma. È stato arrestato venerdì al Cairo, dove si era recato per una brevissima visita alla sua famiglia, e Zaki sarebbe riuscito a comunicare con un amico che poi ha raccontato tutto all'ANSA. Questo amico è Amr, si chiama, cittadino egiziano di 29 anni, che è sfuggito proprio dall'Egitto a un simile trattamento che ha subito Zaki. Adesso vive a Berlino da qualche tempo e ha raccontato che l'amico è riuscito giusto a comunicargli: sono stato rapito dalle forze di sicurezza statali in Egitto, interrogato per 35 ore, non ho subito elettroshock ma sono stato picchiato, bendato e legato. Della vicenda si è parlato oggi alla fine della seduta della Camera. C'è stato l'appello del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che ha detto liberatelo subito. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha detto che il Governo continuerà a dare priorità al caso Zaki, e sul caso Zaki è intervenuto, a parte anche i genitori di Giulio Regeni, dicendo appunto teniamo i riflettori accesi su questa vicenda in modo che non succeda lo stesso che è successo a nostro figlio, è intervenuto anche il rettore dell'Università di Bologna e l'università stessa con una mozione dicendo ribadiamo con forza la nostra vicinanza e il nostro ateneo a Patrick e alla sua famiglia. Il nostro obiettivo è far sì che l'attenzione sul caso sia a livello italiano che europeo venga mantenuta alta per riavere Patrick il prima possibile, ed è per questo che è ospite in collegamento Mirko Degli Esposti, prorettore vicario dell'Università di Bologna. Buonasera Degli Esposti. Buonasera. Quindi è un vostro studente, segue Zaki questo Master Gemma, che tra l'altro è il primo Master Erasmus Mundus in Europa che si occupa di studi sulle donne e di genere, quindi anche segue un Master molto particolare, Zaki, da voi a Bologna. È un Master molto particolare che vede il coinvolgimento di 7 università europee, di 7 diverse nazioni, tra cui Bologna, l'Italia, poi c'è la Spagna e altri paesi. Ha la caratteristica che dice lei, tra l'altro è stato uno dei primi, penso che la prima edizione addirittura risalga al 2006 se non vado errato, ed è concentrato ad un approccio globale, transnazionale, a quello che sono in questo caso i diritti delle comunità vulnerabili, l'identità di genere, e come dice lei, Patrick è stato selezionato dopo una selezione al quale hanno partecipato centinaia di studenti, molto accurata, e ha vinto una borsa di studio molto prestigiosa. E come diceva lei, Zaki è sì un cittadino egiziano, ma è anche un membro della nostra comunità, della comunità degli studenti dell'Alma Mater e della comunità degli studenti europei. Una comunità sempre più internazionale, sempre più grande e che sempre di più travalica i confini per affrontare con piena libertà di pensiero e di spirito critico quelli che sono problemi fondamentali che abbiamo di fronte. Quindi un ragazzo di grande sensibilità, di grande spessore intellettuale, Zaki. Il suo avvocato ha detto che rischia l'ergastolo, tra l'altro, in Egitto. Noi stiamo facendo di tutto fin dal primo momento per mantenere alta l'attenzione su questo caso. Posso confermare da tutte le testimonianze che abbiamo avuto che Zaki è uno dei tante migliaia di studenti che con impegno quotidianamente affrontano il loro percorso formativo, socializzano, viaggiano attraverso l'Europa e affrontano le questioni. L'Università di Bologna ce l'ha scritto nel suo statuto, se posso ripeterlo, che è nostro sì. Impegno ogni volta che dei diritti fondamentali, che sono quelli del diritti fondamentali delle persone, la libertà d'opinione, la libertà politica, la libertà di sviluppare un pensiero critico, ogni qualvolta vengono messi minacciati per un qualsiasi membro della nostra comunità, che vuol dire studenti, professori, eccetera, l'università ha l'obbligo di agire. E questo moto spontaneo che si è creato all'interno dell'università risponde a questo. E se mi posso permettere una cosa, 10 secondi, non è una novità. Nel 1158 Federico I di Barbarossa disse che Bologna era l'università, il luogo in cui la ricerca e lo studio si sviluppa liberamente, indipendentemente da ogni altro potere, e che gli scolari, gli studenti dovevano essere viaggiare liberamente. Chiaro. Ed essere protetti dal potere. Prorettore degli esposti, c'è anche un murales a Roma in via Salaria che ha fatto questa street artist laica, si chiama, con Regeni da dietro che abbraccia Patrick e dice questa volta andrà bene, nel senso che è un auspicio ma anche è la volontà che questa volta davvero i riflettori siano puntati su questo ragazzo e non ci sia un altro Giulio Regeni. Io la ringrazio, Mirko degli esposti, ricordo prorettore vicario dell'Università di Bologna, dove Zaki studia, dove speriamo che possa tornare il prima possibile. Grazie degli esposti. Grazie. A voi, buona serata. E buona serata. A questo punto ci dobbiamo lasciare, è finito il programma, però come sempre Ratta con la Folgore torna ad aggiornarvi alle 22.